Proseguendo il capitolo 29 del Kitzur, dove abbiamo parlato della sensibilità che ci deve essere nei confronti di altre persone e anche in maniera ancora più particolare ed attenta a persone che per natura sono più sensibili, come orfani e vedove e così via. Ora la Halakha ci insegna un'altra cosa che riguarda invece la persona stessa. La persona riguardo a se stessa. Vediamo un po'. È lì sul libro, è pagina 191. Tzarich ha'adam lizaher. Ogni persona deve avere molta attenzione, deve avere molto riguardo. Shelo la'asot eze davar. Di non fare qualsiasi cosa, e cioè di non tenere un comportamento. Sheyecholin lachashod oto, per il quale lo si potrebbe sospettare, cioè un comportamento che potrebbe suscitare un sospetto nei confronti da parte di altre persone. Sheasa devar avera, che lui ha fatto qualche trasgressione, qualche avera, qualche peccato. Cioè uno si comporta in una certa maniera, anche se non ha fatto il peccato, afalpisce in ose, anche se non ha fatto nulla di male. Non deve avere un comportamento che potrebbe far pensare a qualcuno che lui ha fatto qualcosa di male. E ora faremo un esempio. Però prima di fare l'esempio... No, non è la shonara. Non è la shonara. Allora, è il comportamento della persona. Cioè, una persona potrebbe dire... Noi abbiamo iniziato questo capitolo dicendo che gli uomini sono esseri sociali. L'ambiente ha un effetto sulla persona, ma questo significa non solamente che l'ambiente da fuori ha un effetto sulla persona dentro, anche la persona dentro di sé deve dar conto all'ambiente. Cosa significa? Significa uno dice: io so che io ho ragione, che io non ho sbagliato, quello che pensano gli altri che mi importa a me? Magari tutto il mondo pensa che io ho sbagliato, che io ho fatto un peccato, ho fatto un errore, e io so dentro di me la verità, che non ho fatto questo errore o che non ho fatto questo peccato, e quindi sto tranquillo. Che mi importa a me cosa pensano gli altri? Non mi interessa niente. L'Alcha dice no, non devi avere un comportamento che potrà far pensare agli altri che tu hai peccato, anche se non hai peccato. E ora faremo un esempio tratto dall'Alcha, vediamo di cosa si tratta. Chiede Mazzinu, come troviamo Sheha Kohen, all'interno del Bet HaMikdash, quando il Kohen doveva fare una certa cosa, cosa doveva fare? Hatorem et Alishka, doveva aprire il bossolo del Bet HaMikdash, dove si mettevano che cosa? Le offerte della Machazita Shekel, soprattutto venivano portate queste offerte, e c'erano dei grandi bossoli predisposti per questo, per questa funzione, per questo motivo. E da questi denari cosa si faceva? Tutta la manutenzione quotidiana del Beit HaMikdash e soprattutto le korbanot quotidiane che venivano portate erano finanziate da queste offerte. E allora quando nella cassa, diciamo, corrente, quella che si usava, mancavano i soldi e hanno finito il cash, bisognava prendere dal bossolo grande della Machazita Shekel e delle offerte altri soldi. Allora questo si chiama Trumat Alishka. Trumat Alishka significa prendere le offerte nascoste dentro la Lishka, che sarebbe l'ufficio, ok? La stanzetta apposita. Allora la regola era che uno dei Kohanim aveva questo ruolo di andare lì a prendere i soldi. Allora lui doveva essere vestito in una determinata maniera. Come? Con le maniche. Esattamente, lo hayan nichnas bebeged, non poteva entrare con un vestito che nel quale avrebbe potuto nascondere qualcosa, dei soldi della terumah. Lo hayan nichnas bebeged e asui beinyan sheicholin latmin bo eze davar. Appunto, non avrebbe potuto vestirsi in un modo dove avrebbe potuto facilmente nascondere delle cose, perché... ci fidiamo di te. E lui anche dice: io so che non ho fatto niente di male. Però la halakha è le fische tzaricha adam la tzet yedea beriot. Ecco la regola espressa in maniera molto chiara: La persona deve essere giusta, deve essere irreprensibile agli occhi delle persone, così come lo deve essere agli occhi di Dio. Cioè uno potrebbe dire, agli occhi di Dio, Dio sa che io non ho peccato. E questo per me è importante, quello che pensa la gente non mi importa, no? Per il timore. Bisogna avere anche il timore, tra virgolette, della gente. Normalmente funziona al contrario, sì. Che una persona per natura è più timorosa di quello che pensano le persone. Quello che pensa Dio, ok, crede, sa che Dio vede, però dice, va bene, Dio mi capisce, Dio io farò teshuvah, quello che è meno timoroso dell'occhio del cielo. Ci potrebbe essere uno che è il contrario, è molto timoroso dell'occhio del cielo, dice, ok, io con il cielo sono a posto, dentro di me so di essere onesto, so che di non aver peccato. La gente pensa, lasciali pensare. L'Alcà dice no, uno dovrebbe rendere conto sia a Kadosh Baruch Hu che anche, non che deve rendere conto, ma non deve mettersi in condizione che l'altra gente pensa che lui è disonesto o che lui ha peccato. Cambia la vita totalmente. Sì? Un esempio più facile era quello, l'esempio del carne e latte con la carne di pollo, che non si mangia col latte come origine. Perché praticamente si poteva pensare che uno stava mangiando carne affumata. Non è così, adesso finisco il paragrafo e torno a te, un attimo solo. Allora, si basa questa cosa che abbiamo detto, ci sono anche dei versetti che alludono a questa idea, come è scritto nella Torah stessa, Vitem nekiyim me Hashem umi Israel, siate integri, letteralmente naki significa pulito, onesto, integri, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, ad Israele, al popolo. Ok? E anche c'è scritto nei proverbi, nel Mishlei Veomer, un mezzah chen besechel tov, possa tu trovare grazia e benevolenza, beinei Elohim ve'adam, agli occhi del Signore e agli occhi della gente. Sempre c'è questa doppia idea. Ora, solo una parentesi sul pollo con il latte. Molti sono dell'idea che il motivo per cui è vietato mangiare pollo con latte, anche se per la Torah il divieto è carne, non pollo di volatile, ma carne di una bestia con il latte, e molti sono dell'idea che il motivo è marit ayin, cioè quello che vede con l'occhio può pensare. In realtà non è questo il motivo del divieto di pollo e latte. Ci sono alcune cose che sono vietate per maritain nell'Alaha, ci sono molte cose che non si fanno perché potrebbe sembrare come se si facesse qualcosa che non va bene, e può rientrare un po' nel discorso di cui stiamo parlando qua, il discorso di maritain. Tra l'altro, ciò che è stato vietato per maritain è vietato comunque, anche se nessuno vede. Certo. Ciò che è vietato per maritain è sempre vietato. Quella è la motivazione del divieto, ma il divieto è un divieto totale, ok? Però il pollo con latte ha un'altra motivazione. Qual è la motivazione del pollo con latte? Che effettivamente è una gezerà, cioè un decreto rabbinico, non è vietato dalla Torah, la carne di volatile con il latte. Il Rambam spiega, la motivazione di questa cosa è per non causare confusione. Non confusione che tu vedi uno che mangia pollo con latte, perché teoricamente è permesso, e credi che è permessa tutta la carne con il latte. È un po' più subdola la cosa. È perché, visto che sulla Torah stessa il divieto di carne e latte è espresso in una maniera non chiara, perché la Torah dice non mangiare il capretto, non cucinare il capretto nel latte della madre, la Torah lo dice per tre volte, ma lo esprime sempre in questa maniera qua. Non cuocere il capretto nel latte della madre. Lo mangio crudo. Uno lo mangia crudo, sì. O uno che non è il capretto, non è il figlio di quella madre, sì. Oppure il divieto solo cuocere, però mangiare si può. Cioè, certo, giusto. Allora noi sappiamo che la Torah lo dice, che il divieto è, ci sono tre divieti. Per questo la Torah lo dice tre volte. Questo lo sappiamo perché la Torah orale ce lo spiega chiaramente. E l'abbiamo sempre saputo dai tempi di Moshe Rabbeinu, che ci sono tre divieti. Un divieto è cuocere. È vietato cuocere carne e latte insieme. Un altro divieto è mangiare. È vietato mangiare carne e latte insieme. E un altro divieto è trarre beneficio. Mm. Cioè non puoi neanche venderlo o non puoi darlo al tuo animale e così via. Va bene? Quindi sono tre divieti. Issur bishul, divieto di cuocere. Issur achila, divieto di mangiare. Issur hana'a, divieto di trarre beneficio. Ok? Ora, se io vengo e dico, la carne del volatile si può, perché effettivamente per la Torah si potrebbe. Allora potrebbe uno dire, ah, la carne del volatile si può, perché non è scritto sulla Torah. Ok, neanche è scritto sulla Torah che non si può mangiare carne e latte insieme. È scritto non cuocere il capretto nel latte della madre. Significa, se io forse potrei pensare che se non rientro esattamente nel letterale di quello che dice la Torah, non c'è nessun divieto. Ecco perché dove mi potrebbe trarre in inganno la carne del volatile. Allora i Chachamim hanno detto, qualsiasi carne è vietata, anche se è solo di volatile. Prego. Ok, però non è un discorso di marit ain, è un discorso di confusione, di come uno potrebbe confondersi o persone potrebbero confondersi sulla modalità specifica del divieto. E per questo hanno esteso il divieto anche a carne di volatile, che tra l'altro non era sempre così. C'era un momento che ancora non era stato fatto questo decreto. E quando è stato fatto, non tutti i maestri erano d'accordo. C'è un grande maestro, Rabbi Yosea Galilei, Rabbi Yosea della Galilea, dove lui non era d'accordo con questo decreto e nel suo luogo, se non sbaglio era la città di Zippori, comunque nella Galilea, si mangiava carne di volatile con il latte ancora. Solo dopo il suo tempo poi si sono tutti uniformati su questo decreto. Dal momento che c'è il decreto è un issur, è un divieto rabbinico. Ma là, cioè, il problema è che cuocevano il cibo nel latte o... No, non necessariamente. Potevano fare un panino di pollo e mozzarella. Era permesso. Quando viene Mashiach, le mitzvot istituite dai rabbini, reggono anche quelle o vanno via? Una buona domanda. Vabbè, dopo. Credo che rimangono, non vedo perché no, però da approfondire. Allora, l'ultima halakha di questo capitolo dice così. Qui però dice, non è una halakha, cioè non è un obbligo, ma è midat chassidut. Significa, è un modo virtuoso di comportarsi. Chassidut significa oltre la regola. Chassid letteralmente è quello che va oltre la linea dell'obbligo e fa di più. Ok? Quindi... chi vorrebbe comportarsi in maniera ancora più virtuosa rispetto a quello che la regola richiede, allora midat chassidut, shelol kabel matana, di non accettare regali. Non accettare cose gratuite, regali. Ela livtoach bashem sheiten lo dei machsoro. Addirittura anche chi ha difficoltà deve solo avere piena fiducia in Hashem che egli gli accorderà ciò di cui ha bisogno. Shenemar, come detto, vesonè matanot yichie. Colui, c'è scritto nei proverbi, colui che detesta i regali, vivrà. Colui che detesta i regali, vivrà. Questo non è obbligo, di nuovo, questo è midat chassidut. È uno che vuole comportarsi, che già fa tutti gli obblighi. Di nuovo, voglio spiegare cosa significa chassidut in questo contesto. Uno che va oltre la regola, cioè fa ancora più di quello che è obbligato a fare, significa che per tutti gli obblighi sta già a posto. Non è che dovrebbe già stare... Non è che qui i suoi obblighi non rientrano nell'obbligo, però in un altro campo va oltre quello che è già stato obbligato a fare. Sì, è molto bello, però pensa prima a fare quello che sei obbligato a fare. Capito? Però uno che vuole... crescere ancora di più dopo che già rientra in tutto quello che è obbligatorio, allora può trovare molti campi dove può diventare ancora più chassid, ancora più. E una delle cose è questa, di non voler ricevere regali, accettare regali. Sì? Però questo lo posso capire, però dall'altra parte anche la Torah dice anche di non fare più, non fare di meno di quello che sei richiesto di fare. Ah, ok, allora questo è un altro discorso. un'ottima osservazione. Dopo, no, no, spiego, è una buona domanda. C'è pure abbellimento la mitzvah. Esatto, ok. Di nuovo, è molto importante fare queste domande, anche la domanda che ha fatto Leo, perché aiuta a chiarire le cose. Per esempio, abbiamo parlato prima, questo è per l'occhio della gente? No, sembra che è per l'occhio della gente, ma c'è un altro motivo, non è per l'occhio della gente. E questo è un'altra buona domanda. Come fai a dire vai oltre la regola se la Torah dice non fare né di più né di meno di quello che ti chiedo? Questa domanda non solo si può applicare al discorso di andare oltre la regola, ma si può applicare a tutto il discorso, abbiamo appena parlato, di un decreto rabbinico. Allora non dovremmo festeggiare Hanukkah. Allora non dovremmo fare Purim, non dovremmo fare Netilat Yadayim, tutte le cose che l'ebreo fa quotidianamente che non sono esplicite nella Torah e che noi consideriamo obbligatorie, come si fa a farlo se la Torah dice non aggiungere alle mitzvot che io ti do e non diminuire? Allora i maestri spiegano, quando c'è scritto nella Torah non aggiungere e non diminuire, stiamo parlando delle mitzvot della Torah. Significa che queste 613 mitzvot devono essere fatte in questa maniera, senza diminuzione e senza aggiunta. L'esempio che fanno i Chachamim è, se tu dici, metto i tzitzit su un abito che ha tre angoli invece di quattro come richiesto, questo significa diminuire. Se tu dici, metto i tzitzit su un angolo, 5 tzitzit su 5 angoli di un abito, che magari è in forma di pentagono, è un divieto perché hai aggiunto alla mitzvah stessa della Torah. Se tu metti 5 specie nell'ulav invece di 4 specie, hai aggiunto a una mitzvah della Torah. Questo significa che le mitzvot della Torah devono essere come sono indicate nella Torah. A questo poi si aggiunge tutto il discorso dell'autorevolezza dei Chachamim di fare istituzioni nuove, che anche questo è previsto nella Torah. Sì. Che kol asher yoruha, siamo obbligati a seguire le istruzioni dei Chachamim, che siano nuove takanot, cioè istituzioni come Hanukkah, o gzerot, decreti come il pollo con il latte. Questo i Chachamim non stanno dicendo aggiungendo questo alla Torah, non aggiungiamo un altro comma al Sefer, quello sarebbe vietato. Stiamo dicendo questo è un decreto rabbinico, non è un'aggiunta alla Torah stessa. Quello è uno dei compiti dei Chachamim. Quindi è un altro tipo di cosa. Poi, questo però è sempre nell'obbligo. Quello di cui stiamo parlando qui, che midat chassidut, che per ulteriore virtù, non è un obbligo, quindi non è nessun tipo di aggiunta, non è considerato proprio un'aggiunta. Modalità di comportamento, anche. Sì? Per accettare i regali. Sì. Si parla nel senso che prende, cioè è la circostanza, uno dice... che ne so, se io faccio, se sono un giudice, logicamente non posso accettare. Quello è vietato, non è una virtù. Appunto, quello proprio è vietato. Non però, è una virtù. Allora, però, ti spiego, visto che è una cosa di Hasidut, non è così ben definita. Significa, dipende anche da condizioni sociali, da comportamenti, condizioni culturali, non sociali, di come ci si comporta in una determinata cultura, perché può darsi che tu dici in una certa cultura si usa alla fine dell'anno fare un regalo e se non lo fai o se non lo accetti sei visto male, è chiaro che è meglio accettarlo. Cioè è difficile definire, però sicuramente negli anni, nei secoli abbiamo avuto Chachamim e maestri che erano maestri anche di comportamento, non solo di studio, che hanno rifiutato qualsiasi tipo di regalo. Ma ovviamente è una cosa molto estrema, è molto... mi ricordo anche per esempio il Rebbe non accettava regali e molto spesso la gente gli portava cose o anche libri, autori che volevano che il Rebbe vedesse il loro libro eccetera, il Rebbe dava almeno simbolicamente qualcosa, perché il Rebbe distribuiva i dollari, no? Sì, per diversi anni la domenica, allora tanta gente veniva e dava, Rebbe ti voglio dare questo, ti voglio dare quello, il Rebbe dice allora ti pago simbolicamente con questo dollaro o $2 che è, perché non è che lo diceva, però si sapeva che non voleva accettare. Allora, sono comportamenti che dipendono anche ovviamente dai contesti, non significa che non puoi fare un regalo a tuo figlio per il compleanno, non c'è scritto di non dare, c'è scritto di non accettare, però se tua moglie ti fa un regalo a te, è meglio che l'accetti, perché sennò vai a incidere negativamente nel Shalom Abayit, cioè bisogna usare un po' chiaramente... Però sì, però come regola generale esiste questa cosa e ci fa anche capire le cose in una certa maniera, come una persona dovrebbe comportarsi anche in determinate situazioni. Ok, molto bene. Allora abbiamo concluso il capitolo. Per via del contesto.